questo sorriso furbesco siamo soliti scrollarci di tutto, anche se, ma questo non capita, dovessimo mai desiderare la felicità che forse viene dalla musica. Fa eccezione solo Josephine. Lei ama la musica e sa anche trasmetterla, è l'unica morta. Lei, la musica, scomparirà dalla nostra vita, chissà per quanto tempo. A me mi fanno schifo, quelle lì mi fanno schifo, a me mi hanno detto così. Oddio, sei un coglione! Io le pago per dormire. Concentrarsi è la vostra arma migliore per essere produttivi. Un altro latte vinci. Seguitemi anche su Instagram dove posto un sacco di contenuti divertenti con tutti. Avanti! Per Cristo! Non lavoro, non guadagno. Ma sai qual è il problema? Che tu sei un nero, sei una razza di merda. E rimanete sempre schiavi della vita. Tu rimarrai schiavi a vita. Devi fare solo in te quello la donna, come li fate tutti quanti. Perciò sono i negri di merda. Ma fate schifo di sé. Schifosi, che vengono a fare? E d'accanto come stanno, mi hanno sbirato. A 4 te l'hanno a operare. Ti piace un cazzo libro? Leggero, mi ero alzato, tremando, per scoprire da dove provenisse si era fatto tutto lo silenzio. Questa volta però è stata una sedizione. E poi questo. Molto rumoroso e terribile. Montavano sulla cassa del carbone, scendevano dalla cassa del carbone, attraversavano la stanza in diagonale, raggiavano cerchi, rosicchiavano il legno, fischiavano di gente. Io dormivo. E sempre avevo il senso del loro silenzio, del lavoro clandestino di un popolo di proletari oppressi cui la notte appartiene. Ero del tutto disarmato, pensavo, con sostegno di tutto il mio essere. Non osavo accendere la luce, solo mettere un grido di tanto in tanto per cercare di spaventare. Così è trascorsa la notte.

Josefina è esausta. Kafka scrive che è destinata al declino. Le sue richieste non sono state ascoltate e il popolo, così facile da commuovere, non si commuove più. Josefina comincia a zoppicare, si ferisce ad un piede mentre lavora e la voce sembra non essere più quella di una volta. Qualcuno dice che fa finta di non riuscire più a cantare, che ha solo paura di invecchiare. Tanto alla fine, quasi straziata, canta lo stesso. Una volta il popolo si aspettava che cantasse, come sempre, ma lei non si presentò. Era scomparsa. Josefina si perderà lieta nella moltitudine innumerevole degli eroi del nostro popolo, eroe per nulla eroica, e verrà presto dimenticata in una liberazione superiore, come tutti i suoi fratelli e le sue sorelle. Lo spettacolo Josefine di e con Tamara Bartolini e Michele Baronio, drammaturgia Tamara Bartolini, regia Bartolini Baronio. Bentrovati. Ciao. Ciao, bentrovati. Ciao a tutti e a tutti, bentrovati. Nuovo progetto, di cosa si tratta? Partiamo da un racconto di Kafka, uno dei suoi ultimi racconti. Josefine, la cantante o il popolo dei topi, che ha scritto appunto poco prima di morire, in cui c'è una topolina che si chiama Josefine, che cantando provoca una fortissima emozione in questo popolo di topi che non si ferma mai ed è schiavo e artefice della macchina produttiva che lo incatena a questa corsa senza sosta, e Josefine invece si ferma, canta, non può fare a meno di cantare, e cantando il popolo dei topi ferma la macchina e si raccoglie attorno a questa gioia un po' infantile del gioco dell'artista che è Josefine, in questo canto che in realtà è un fischio come quello di tutti gli altri topi, anche forse più imperfetto degli altri, più flebile, dice Kafka, una voce increspata che tira fuori un po' la crepa in cui forse siamo tutti, e proprio per questo, però, per questo suo stare tutta dentro quel gesto, sposta un po' la storia di questo popolo. E questo racconto ci ha parlato tantissimo e ci sembrava parlasse delle domande che ci stiamo facendo. L'abbiamo iniziato prima della pandemia, poi si è interrotto, e subito dopo la domanda che ci pone, la questione anche di che cos'è l'artista, del senso che ha ancora questo lavoro, di qual è il rapporto tra l'artista e la comunità. E poi anche più a fondo anche che cos'è la libertà che in qualche modo l'artista si prende sul palco, e quindi come questa cosa anche poi riverbera nel popolo che l'ascolta e che quindi che strada prende. Sì, la domanda, diciamo, poi centrale a cui siamo piano piano arrivati era anche questa, cioè questa parola, la libertà, dove sta, che cos'è? Lei cantando in qualche modo ci rivela qualcosa che sapevamo già tutti quanti fare, l'origine di qualcosa, un luogo, per quello diciamo un luogo anche del gioco, dell'infanzia, un luogo in cui si è liberi davvero, tutti dentro quel gesto. E da lì è iniziata questa ricerca, che è stata anche una ricerca verso proprio archivi storici di foto, anche lavorando proprio anche sui materiali su internet, così anche più grezzi. Ci siamo proprio domandati quali sono i gesti di cui non puoi fare a meno, che hanno spostato la percezione proprio della storia, no? Come se il canto di Josefine potesse essere un controcanto per riscrivere anche un'altra storia. E quindi siamo andati anche alla ricerca di tutto questo materiale, da una parte appunto più storico, dall'altra invece anche, come facciamo poi di solito, incontrando, intervistando, facendo entrare anche dentro gli dispositivi scenici che hanno fatto iniziare la ricerca nel 2019 al Teatro di Vetro, anche ospiti, persone con cui ci siamo confrontati, insomma, e quindi diciamo che le loro testimonianze, i pensieri di tutte queste persone hanno popolato e nutrito, come poi sempre accade nei nostri lavori, la drammaturgia e la ricerca. Quindi è una domanda che continueremo a porre anche andando in scena. Come l'avete pensata la messa in scena? Non lo so, nel senso che come al solito è dentro la drammaturgia stessa, no? Noi entriamo in sala e cominciamo a riproporci le domande e i ragionamenti che abbiamo fatto e piano piano lavoriamo proprio sulle assi del palcoscenico rispostandoci e rispostando la drammaturgia stessa. È una sorta di traduzione ogni volta. Certo, in questo caso lavorando con l'archivio abbiamo lavorato con il video e anche con le registrazioni audio a partire da quello. Poi c'è anche il fatto che ragionando sul ruolo dell'artista, no? Il ruolo anche del teatro, abbiamo approfondito proprio un po' il dispositivo e quindi in qualche modo cercando la rilevanza proprio tra anche la maschera teatrale e invece la nudità teatrale, le due facce anche di un percorso che ci appartengono tra l'altro, anche in questo senso è un archivio anche nostro di vita. Sì, diciamo che la scena è un lavoro anche sullo spazio scenico, appunto come se fosse da una parte veramente l'apertura di un archivio e di una pagina piuttosto che di un archivio come ci possiamo immaginare gli archivi kafkiani, piuttosto che invece esattamente mettere un videoproiettore e sfogliare delle immagini che risuonano, no? Cioè è tutto un po' una risonanza, questa risonanza delle immagini e dell'archivio diventa una risonanza poi sulla scena e quindi il corpo dell'attore, in questo caso che è proprio Michele, perché io sono in una zona di mezzo tra gli spettatori e la scena delimitata, gioca con il corpo dell'attore da una parte in relazione a questo archivio e dall'altra con la nudità, quello che c'è dietro la maschera dell'attore, e quindi ci siamo divertiti anche a entrare dentro anche questo animale, questo topo di cui parla Kafka, insomma. In chiusura ci lasciate tutti i riferimenti web per i dettagli? Hanno collaborato in questi due anni al progetto Francesco Raparelli, Margherita Matera, Raffaele Fiorella, la nostra regia e la produzione nostra insieme alla 369 gradi che ci accompagna da un po' di anni, con il sostegno del Teatro di Roma in collaborazione con Teatri di Vetro, che è stato proprio fondamentale in questo dialogo e collaborazione artistica, il Teatro del Lido di Ostia. Siamo appena tornati da una residenza in Toscana grazie a Kilowatt Festival, siamo stati a Castiglion Fiorentino facendo proprio una residenza delle prove aperte, degli incontri con gli studenti, e un grazie anche al sostegno da parte di Roma Europa, Carrozzerie Not e il Centro Jobel. E soprattutto mi fa piacere ringraziare qui tutte le voci che abbiamo incontrato e registrato durante la ricerca, che sono stati veramente quell'incontro che poi per noi è sempre il teatro e che quindi speriamo sia in questi giorni, questo momento in cui accade qualcosa ancora. Un saluto e un ringraziamento, a presto! Grazie, a presto! Grazie. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. L'autore e regista Alessandro Serra sullo spettacolo Macbettu a Roma, Teatro Vascello, dal 15 al 19 marzo 2022. Alessandro, benvenuto. Grazie, grazie. È un tuo testo, ma curi anche regia, scene, luci e costumi, e ce lo presenti? Lo spettacolo è un progetto che nasce circa 10 anni fa, a seguito di un reportage fotografico che feci in Barbagia, nel cuore della Sardegna, e che per me è stato una specie di ritorno a casa in qualche modo, perché sono stato ospite dei miei parenti sardi, perché io ho origini sarde, in particolare in questo paese che si chiama Lula, e da lì in qualche modo ogni giorno mi spostavo nei vari paesi a fotografare e a vedere per la prima volta questo residuo di ritualità dionisiaca, insomma, è un patrimonio davvero straordinario. E fotografando, scattando, poi ci fu anche una mostra fotografica, mi si palesavano davanti agli occhi le immagini di questo testo che ho sempre molto amato, e soprattutto nel pomeriggio in cui andai a Mamoiada a fotografare i Mamutones, quando sentii questo incedere di campanacci, questa marcia terrificante da lontano, in qualche modo ascoltai più che vidi la foresta del Macbeth che avanza, e poi moltissime altre analogie, ma soprattutto la lingua, che è una lingua che ascoltavo da bambino a casa dei miei nonni, una lingua che mi faceva anche molto paura in qualche modo, e una lingua che riascoltai per tanti giorni e che mi sembrò perfetta per raccontare quel tragico destino, sempre considerando il fatto che il problema

eccellente interprete. Io vengo più da un teatro molto di movimento, ma anche negli ultimi anni di parola, e quindi il nostro fine è di riuscire a far passare queste parole che sono gravi, ironiche, melanconiche anche, e molto allarmate per la situazione che allora era quella intorno a Sartre, nel periodo in cui lui l'ha scritta, e che purtroppo ha tantissime eco, completamente diverse ovviamente, ma per la situazione che purtroppo stiamo vivendo adesso. Liberamente tratto, in quale rapporto è col testo? Della nausea, appunto, Rossella si è concentrata su una parte finale del libro in cui il protagonista, un giovane ricercatore, studioso di storia e di letteratura, incontra una sua vecchia amante in un albergo dopo 4 anni appunto che non si vedevano, e quindi non è tutta la nausea, ma è proprio questo rapporto in cui evidentemente si intravede dietro la protagonista Sartre stesso, e dietro la protagonista si intravede piuttosto evidentemente la presenza di Simone de Beauvoir, ed è un po' un omaggio in qualche modo che Rossella fa a questa figura femminile, non trascurando l'aspetto dell'uomo, cioè di Sartre, che sono io in quel caso, insomma. Com'è pensata la messa in scena? È molto semplice, nel senso, intanto lo spazio che abbiamo a disposizione è uno spazio molto piccolo, quasi una stanza, insomma, che va benissimo, l'idea anche di una stanza d'albergo, come era l'ambientazione originale del romanzo. Noi ovviamente non abbiamo fatto una ricostruzione realistica, fisiologica, anche perché in qualche modo ritorna, ma per minimi accenni, questo tema della melanconia, che era originariamente il titolo che Sartre aveva scelto per questo suo romanzo, e che poi Gallimard, l'editore, gli disse: ma no, melanconia non tira tanto, mettiamo la nausea, che invece è un titolo più forte. E però, guardando la filologia delle cose, abbiamo pensato insieme che rimettere in ballo questo termine antico, insomma, della melanconia, poteva essere interessante. Quindi nella scena ci sono 2 poltrone su cui sedersi, un paravento e degli oggetti alle pareti e poco più, ecco. Perché questo numero 1 accanto a melanconia? Sartre da ragazzo pare che fosse rimasto sempre molto colpito dalla celeberrima incisione di Albert Dürer che si chiama Melancolia 1, e quindi questo era il titolo originario che avrebbe voluto dare al testo, quindi c'è questo aspetto un po' dello spleen, lo spleen di Parigi, come direbbe Baudelaire. Sarà un evento a sé stante o l'inizio di un percorso per questo spettacolo? Si spera sempre che un lavoro anche impegnativo poi possa invece continuare un suo percorso, al momento non abbiamo nessuna certezza, come al solito, vediamo come verrà accolto e speriamo che ci siano delle altre occasioni per portarlo in giro. Lo spettacolo La Nausea, Melanconia 1, a Roma, Teatro Tordinona, dal 16 al 20 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento all'attore Marco Solari. A presto! Grazie a voi tutti. Con l'attrice Maddalena Fierro della compagnia Bolero per presentare lo spettacolo Lilith, Frammenti di Donna, a Roma, Teatro di Documenti, dal 17 al 19 marzo 2022. Ben trovata! Grazie, ben trovati a voi. Che spettacolo è questo? Allora, è uno spettacolo che nasce da un progetto che noi abbiamo come compagnia Bolero da diverso tempo, ed è uno spettacolo che vuole raccontare la donna, o meglio quello che è stata un po' tutto il percorso, la storia della donna, addirittura dal mito ai giorni nostri. Quello che noi intendiamo fare è uno spettacolo corale, l'abbiamo chiamato Frammenti di Donna perché ci siamo immaginati un po' un percorso come all'interno di una galleria, dove si vanno a scoprire diversi ritratti con frammenti di donne che sono sì tante donne diverse, donne che partono da quella che è la prima in assoluto, appunto Lilith, che dà il titolo allo spettacolo, che è stata un po' la donna che creata secondo i riferimenti biblici da Dio, in realtà poi si ribellò a una sorta di sottomissione. E da lì poi Lilith è diventata un po' l'altra faccia della luna, no? Quindi la parte più oscura della donna, ma da qui noi intendiamo raccontare donne con le loro problematiche, se vogliamo, ma anche con le loro forti personalità. Intendiamo raccontare figure sia del passato che però hanno una modernità nel pensiero, e mi viene in mente ad esempio la Lisistrata, che appunto nell'antica Grecia occupava l'acropoli per impedire agli uomini di sperperare i loro denari nella guerra. Quindi immaginiamoci quanta modernità in un pensiero così antico, che voleva costruire una società fatta di tante persone indipendentemente dalla loro nazionalità, dal loro sesso, dal loro genere, dalla loro religione, per poi passare attraverso figure emblematiche come possono essere quelle di una Camille Claudel, amante, compagna, prima allieva di Auguste Rodin, che viene additata quale spudorata, svergognata, perché aveva questa relazione con quest'uomo sicuramente più importante, ma alla quale poi è stato impedito di esprimere tutta la sua creatività. Pensate che è stata praticamente rinchiusa in un manicomio per 30 anni, no? Ed è arrivata a distruggere le sue opere. E poi passiamo attraverso figure sicuramente più moderne, come possono essere le spose bambine, e quello che mi preme di dire è che questo è uno spettacolo corale dove saremo ben 13 donne dagli 8 agli oltre 60 anni a rappresentare tutta questi generi di donne, ed avremo però come contrappunto una figura maschile, perché quello che noi vogliamo fare è anche dare quello che era un po' il pensiero di tante figure storiche, eminenti del passato sulla donna. Quindi avremo questo uomo che di volta in volta farà da contrappunto, raccontando pensieri di personaggi eccellenti, da Kierkegaard a Erasmo allo stesso Gandhi. Quindi ecco, è un progetto che noi coltiviamo da diverso tempo, e noi come compagnia Bolero cerchiamo di portare sempre sulla scena delle tematiche sociali, anche sociali, moderne, ma che hanno sempre delle profonde radici anche nel passato. Com'è pensata la messa in scena? La messa in scena parte da una coralità, quindi da una sorta di oratorio in qualche modo, dove di volta in volta, poi tra l'altro lo facciamo in un teatro molto particolare, che è il Teatro di Documenti, dove noi saremo quasi in mezzo al pubblico, e quindi di volta in volta si alterneranno sul palco, sul proscenio, queste figure, questi ritratti di donna. Come compagnia noi cerchiamo sempre di portare non soltanto la parola parlata, ma anche la parola raccontata attraverso i gesti, quindi avremo della musica sempre da contrappunto, degli attimi corali di espressione corporea, mi piace di dire, più che di ballo, perché noi ci impegniamo totalmente, ci immergiamo totalmente in questa rappresentazione. Quindi ciascuna di noi porterà in scena queste donne, e avremo comunque dei fili conduttori per generi, quindi dal mito, passando poi per le madri, le tante figure di madri, passando poi per le donne moderne, passando per le passionali o per quelle donne che hanno, come posso dire, trovato il modo di esprimersi in attività che un tempo magari potevano essere soltanto appannaggio degli uomini. Pensiamo alla prima donna che ha trasvolato l'oceano, quindi a Emilia Earhart. Quindi insomma, ecco, avremo tante figure che si alterneranno sul proscenio di volta in volta. Per saperne di più ci lasci dei riferimenti web, siti internet, pagine social?

E beh, parliamo di migliaia e migliaia di donne, perché insomma pensiamo solo al periodo storico a cavallo tra le due guerre mondiali, questa era una prassi. Poi nel ventennio fascista non ne parliamo, cioè proprio sotto il regime fascista era un internamento fuori controllo, veramente. Perché era un modo anche per fare pulizia sociale, quindi parliamo di cifre altissime. Che percorso farà questo spettacolo, o ha già fatto? Noi abbiamo fatto, purtroppo poco prima del disastro pandemico, un'anteprima a Roma al Teatro Argo, e l'abbiamo fatto circuitare in Abruzzo e adesso torniamo a Roma per poi sicuramente organizzare una tournée nazionale, ci stiamo già lavorando, e subito dopo ad aprile saremo al Faber a Frascati e la stagione prossima io mi auguro di farlo girare un bel po', sì. Ci dai tutti i riferimenti web per maggiori informazioni? I pensieri dell'altrove, tutto attaccato, @gmail.com, o comunque visitando il teatro dell'altrove, Teatro Studio di Roma, ci sono tutte le informazioni. Tra l'altro noi ospiteremo anche la mostra I Fiori del Male, che è proprio la mostra a cura di Anna Carla Valeriano e Costantino Di Sante, dove proprio lo spettatore si immergerà nei volti, nelle lettere, nelle cartelle cliniche di queste pazienti, per cui il viaggio sarà veramente particolare e interessante. Lo spettacolo Neve di Carta a Roma, Altrove Teatro Studio, dal 18 al 20 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Elisa Di Eusanio. A presto! Grazie a te, ciao! Con Veronica Olmi del Teatro Villa Panfili per presentare la rassegna di storie, racconti e emozioni condivise dal titolo Anticorpi, a Roma, Teatro Villa Panfili, dal 5 marzo al 2 aprile 2022. Ben trovata! Ciao, ben trovati voi! Ce ne parli? Molto volentieri, anche perché riusciamo da questo lungo inverno, che non è solo un inverno proprio della stretta stagione quasi conclusa, ma un inverno di legami che si sono spezzati, di solitudini che si sono create dovute all'emergenza sanitaria, e ne abbiamo risentito veramente tutti, no? Piccoli, grandi, per motivi diversi, le persone anziane non ne parliamo, e quindi questa primavera vuole essere veramente una rinascita, come sempre avviene anche dopo il più freddo degli inverni, diceva una canzone, e con questa rassegna di primavera rifioriamo noi anche lì al Teatro di Villa Panfili. Tra l'altro la villa in questo periodo è meravigliosa e l'abbiamo voluta chiamare proprio Anticorpi, ne abbiamo bisogno, anche quelli dell'anima. In quanti eventi consiste? Sono 5 appuntamenti, il sabato o la domenica, il pomeriggio o la mattina a seconda del programma. Sono proposte molto diverse tra di loro, scelte con cura da noi proprio per il gusto di ospitare personaggi che frequentano il nostro teatro, ma anche personaggi, artisti che da noi non sono ancora mai venuti, e quindi ci piaceva proporli proprio alla cittadinanza. Cominciamo il sabato 5 marzo con Luna Romani, che ci propone Mami Blues, e domenica 6 marzo invece torna l'amico carissimo Pino Strabioli con l'omaggio a Paolo Poli, sempre fiori mai un fioraio, insieme a Marcello Fiorina alla fisarmonica. E la domenica 6 marzo sarà alle 11.30 la mattina. E poi proseguiamo domenica 13 marzo, sempre il pomeriggio, con Franca Abate Giovanni, che ci propone la sua Teresa Zum Zum, molto divertente. L'abbiamo rincorsa per un po' per farla venire al nostro teatro, ce l'abbiamo fatta e quindi siamo molto felici. Sabato 19 marzo, sempre il pomeriggio alle 17.30, Aristoteles Bermuda, sarà con noi Luisa Merloni. E questi, diciamo, sono le 4 prime proposte. Concludiamo sabato 2 aprile, sempre il pomeriggio alle 17.30, con Rauta Lampi di Garofoli Nexus, che ha vinto tra l'altro vari premi, ne abbiamo visti nei festival estivi, ma appunto nel nostro teatro non c'era ancora stata, al nostro pubblico non avevamo ancora proposto questi titoli. Lo facciamo con grande piacere, sperando appunto di poterci godere l'arrivo di questa splendida stagione. Il titolo Anticorpi prefigura proprio l'uscita da questo periodo? Ci siamo resi conto che oltre a curarci fisicamente, no, il corpo con l'emergenza sanitaria col Covid, ma anche da tanti mali, gli anticorpi sono necessari, ma sono necessari anche per affrontare la quotidianità. Abbiamo bisogno anche come comunità di anticorpi, come fosse proprio la comunità un luogo fisico, no? Ci sono mancati le mani, gli abbracci, gli sguardi, il respiro, la condivisione proprio delle emozioni, e quindi questo bisogna recuperarlo. Come ci prendiamo l'aspirina, come ci prendiamo l'antibiotico, servono questi momenti di comunità, di stare insieme, e lo spettacolo dal vivo, diciamo, anche il cinema, senza dubbio. Una sala del cinema piena è molto diverso da vederselo sul divano o in un cinema vuoto. Però lo spettacolo dal vivo, insomma, non devo spiegarlo qui ora. Sappiamo benissimo che vive dell'incontro tra chi è sul palco e chi è in platea, no? E questo incontro bisogna ricrearlo, perché ci è mancato parecchio, e sarà il nostro vaccino. Dal vaccino appunto per le solitudini e per i pensieri cattivi che vanno allontanati, e in più appunto in questo momento in cui bisogna ribadire, ahimè, che la pace deve sempre vincere sulla guerra, noi con il teatro e con le arti non possiamo tirarci indietro, non possiamo fare a meno, come un mantra, di ripeterlo, no? In tante forme. Ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni? Sul sito www.teatrovillapanfili.it c'è tutto il programma ed eventuali variazioni che potrebbero accadere, ma in genere siamo molto precisi, e si può prenotare telefonicamente 06 58 14 176, oppure scriverci un'email a scuderieteatrali@gmail.com. L'ingresso sono 10 euro, oltre delle riduzioni con le classiche under 26, over 65 e con chi abbiamo le convenzioni, e in questo periodo ovviamente Green Pass e FFP2, almeno finché sarà strettamente necessario. Anticorpi, la rassegna di storie, racconti e emozioni condivise a Roma, Teatro Villa Panfili, dal 5 marzo al 2 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Veronica Olmi. A presto! Grazie a voi, vi aspettiamo! Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare il libro Attraversamenti Multipli 2001-2020 a Roma, a O Studio, sabato 19 marzo 2022. Ben trovata! Grazie. Che operazione è questa? Presentiamo un libro che è uscito l'altro anno e che racconta un po' il percorso del Festival Attraversamenti Multipli dalla sua nascita, cioè dal 2001 al 2020, quindi l'arco dei suoi primi 20 anni. Il festival è nato nel 2001, che per noi è stato un anno incredibile, denso, ricco di avvenimenti. È successo un po' tutto quell'anno, anche perché l'anno di Genova, a giugno nasceva Attraversamenti Multipli, questo esperimento che in quel momento era proprio una sperimentazione, non pensavamo che poi sarebbe durato così a lungo, e neanche questa crescita, insomma, questo percorso non lo immaginavamo. E a giugno appunto nasceva il festival e a luglio eravamo nelle strade di Genova, quindi un anno veramente, come compagnia, come margine operativa, è stato un anno particolarmente importante, come se c'è un prima e un dopo quell'anno. E questo libro, che è stato curato da me insieme a Paco Graziani ed è edito da Editoria e Spettacolo, che è una casa editrice piccola ma molto puntuale sulla scena artistica contemporanea, sulla scena degli arti performative e teatrale, è un libro che racconta questo percorso di questi 20 anni, e abbiamo montato insieme, fatto un montaggio, un cut-up di varie voci, di diversi sguardi, quindi diciamo che abbiamo cercato di creare un itinerario componendo e assemblando materiali diversi: foto, immagini, estratti di comunicati stampa, articoli, recensioni di critici. Quindi sicuramente è un libro plurale, a voci multiple, attraverso il quale abbiamo cercato comunque di ricostruire quello che è stato un percorso e la particolarità anche di questo festival, che da quando è nato nel 2001 è sempre confrontato con i paesaggi urbani, qualcosa che adesso succede molto spesso, non soltanto nel panorama italiano dello spettacolo e delle arti performative, ma anche in Europa. Ma nel 2001 era qualcosa di molto strano portare quella che era la scena artistica contemporanea di teatro, danza e musica, principalmente ovviamente non solo fumetti, street art, video, quindi c'è sempre stata questa anima un po' multidisciplinare o cross-disciplinare di attraversamenti molti, portarla in dialogo con gli spazi urbani, quindi con dei luoghi non convenzionali, era qualcosa che ancora non avveniva, non era una consuetudine, e quindi c'era un po' questo elemento anche interessante di sperimentazione, di rischio, che condividevamo insieme agli artisti che hanno attraversato il festival, che sono stati tantissimi all'interno di questi anni, quindi un po' il rischio di presentare degli spettacoli senza la rete di protezione che dà lo spazio convenzionale che può essere un teatro. In questi anni il festival è stato nomade, si è sviluppato principalmente nella metropoli di Roma, ma non solo, ogni anno ha creato anche delle tappe nella provincia, nella regione Lazio, e anche delle tappe, dei momenti, degli eventi al di fuori, per esempio siamo stati a Genova, a Napoli, quindi anche in altre città. Il libro racconta un po' questo percorso, lo presentiamo, come dicevi tu prima, il 19 marzo alle 18 allo studio, uno spazio anche questo dedicato alle arti performative a Tor Pignattara. È una delle tappe di avvicinamento, tra l'altro, al festival dell'edizione 2022 di Attraversamenti Multipli, che ritorna a giugno. Ci eravamo spostati per molti anni a settembre, quest'anno torniamo a giugno, che si svilupperà a Roma principalmente negli spazi del Quadraro, e quindi costruiamo alcune tappe di avvicinamento raccontando un po' anche il percorso del festival degli anni precedenti. E insieme a noi nella presentazione, oltre a me e a Paco che abbiamo curato il libro, ci saranno Paolo Ruffini e Raimondo Guarino. Paolo Ruffini, che è un critico particolarmente attento alla scena artistica contemporanea, alla danza, al teatro, e Raimondo Guarino, che è anche lui un attento osservatore, oltre ad essere un docente universitario di Roma 3 di cultura della performance. L'ingresso è libero, chiaramente, e vi aspettiamo. Il libro Attraversamenti Multipli 2001-2020 a Roma, o studio, sabato 19 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. A presto! Grazie. La settimana degli eventi culturali e degli spettacoli teatrali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Olè olè, buon pomeriggio a tutti. Ce ne andiamo allo spazio Rossellini, perché l'occasione già questa sera di vedere la compagnia Ragli con uno spettacolo di Giuseppe Pipino, la produzione Compagnia Ragli, la regia di Rosario Mastroda, e in scena c'è Dalila Cozzolino, insomma poi il duo dei Ragli più storico probabilmente. Chi niente fu non dirà niente, tra parentesi. Si tratta di un lavoro in tre monologhi, ogni monologo può prendere forma autonomamente, ma insieme c'è stata la possibilità di un'unica messa in scena, così ci dice Rosario Mastroda. I tre personaggi hanno tra di loro un legame particolare che è nella drammaturgia, ma anche nei loro rapporti, e mette in relazione l'emarginazione all'interno della società attuale definita appunto liquida. C'è un palazzo senza intonaco, lontano dal centro, in un piccolo paese del sud, delle vite che ne fanno parte. In questo palazzo ci sono tre appartamenti, in ciascuno una vita silenziosa. Sono tre appunto i personaggi, le tre vite silenziose, quelle di Carmela, Marino ed Elvezia, che appunto si racconteranno sul palco dello Spazio Rossellini questa sera, martedì 15 marzo, alle ore 20:30. Al teatro Lo Spazio, invece, il ritorno delle Donne del Don Giovanni, ovvero sia le Dissolute Assolte, dal 17 al 20 marzo. Spettacolo diretto, scritto e ideato da Luca Gaeta, una sorta di party dai riti orgiastici, ecco, così ci viene raccontato. Il teatro si trasforma in un nightclub dove abitano le donne che Don Giovanni ha reso immortali, inserendole in quello che è il famoso catalogo. Qui vengono raccontate le loro storie di seduzione. 17-20 marzo, quindi, per un Don Giovanni visto dalle donne che hanno attraversato la sua vita, al teatro Lo Spazio. al Teatro Olimpico, non se ne parla mai, ma c'è il ritorno di Emiliano Pellissari con lo show internazionale di La No Gravity dal 17 al 20 marzo, in occasione della celebrazione dantesca per i 700 anni. Emiliano Pellissari presenta la sua coreografia per danzatori, atleti e acrobati che sfidano la gravità e creano delle immagini straordinarie con Inferno, Teatro Olimpico, dal 17 al 20 marzo, per questa creazione sbalorditiva di Emiliano Pellissari. Per quanto riguarda il Parioli, invece, torniamo ad Edoardo De Filippo, perché c'è un omaggio in parole, musica e poesia di Lina Sastri, che appunto racconta il suo Edoardo, Edoardo mio, attraverso lettere, così, e qualche citazione delle opere, al Parioli dal 16 al 27 di marzo. Al Teatro Fortezza Est invece andiamo, perché ci sarà dal 17 al 19 marzo il vincitore del premio tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2021, ovvero sia Enoch Marrella con Tecnicismi e Baldoria, uno spettacolo per addetti ai lavori molto autoreferenziale. Questo, insomma, l'ironia che contraddistingue spesso, insomma, l'attore, autore Enrico Marrella, che appunto porta questo spettacolo per nessuno, per pochi, per addetti ai lavori, ma la storia in realtà è quella che si allarga, ecco, racconta un artista troppo distante dal pubblico che quasi dimentica, no, che ci sia o ci sia mai stato un incontro reale, e ci dice chi c'è dall'altra parte, noi attori, autori dello spettacolo, della nostra vita, che includiamo chi includiamo davvero nella nostra performance. C'è davvero bisogno di renderci così universali e comprensibili quando ci rivolgiamo agli altri? Quindi una delle domande più importanti, più vibranti dell'arte, è la Marrella la porta dal 17 al 19 marzo con Tecnicismi e Baldoria sul palco della Fortezza Est. Invece, per quanto riguarda l'Ambra Iovinelli, uno spettacolo piuttosto vasto da come si presenta, ed è il Don Chisciotte, Don Chisciotte di Cervantes, con due protagonisti particolari, cioè c'è Alessio Boni nei panni del Don Chisciotte, e il Sancho Panza interpretato da Serra Ilmaz, l'attrice, insomma, che abbiamo conosciuto anche soprattutto tramite i film di Ferzan Ospetek. E lo spettacolo è adattato da Francesco Niccolini ed è ispirato appunto all'opera dello scrittore spagnolo. La direzione è il lavoro drammaturgico, sono curati da lo stesso Alessio Boni, da Roberto Aldorasi e Marcello Preyer, che appunto lo portano in scena dal 15 al 27 di marzo al Teatro Ambra Iovinelli, quindi per un capolavoro della letteratura mondiale. Poi invece allo spazio L'Altrove Teatro Studio, per la seconda settimana ritorna Nevi di Carta con Elisa Di Eusanio, che dirige con Daniele Muratore questo spettacolo dal 18 al 20 marzo. Si tratta di una ballata in versi scritta da Letizia Russo su due contadine abruzzesi, e rievoca, anzi tratto da un libro che racconta le storie del manicomio di Teramo, Ammalò di testa è il titolo del libro, Neve di carta il titolo dello spettacolo, che andremo a vedere All'Altrove Teatro Studio 18-20 marzo. Per quanto riguarda invece il teatro Tor Bella Monaca, vorrei segnalare due lavori. Harold Pinter, in anteprima l'atto unico di Harold Pinter, questa sera e domani, con la regia di Gabriela Corini, in scena con Roberto Zorzut, c'è una coppia di mezza età nell'intimità della propria casa che improvvisamente discute di un passato misterioso e torbido della donna, e questo rompe l'equilibrio sereno della loro storia e rievoca dal passato, insomma, dei dubbi sulle loro identità. Questo è uno degli ultimi drammi di Pinter, che si chiama Ceneri alle Ceneri, e sarà in scena oggi e domani 15 e 16 al Teatro Tor Bella Monaca, stesso teatro dove venerdì e sabato 18 e 19 ci sarà un nuovo spettacolo diretto da Giancarlo Nicoletti con il nostro amico Giorgio Colangeli ed altri attori, insomma un bel po' di altri attori. Lo spettacolo è di Luigi Pirandello ed è precisamente L'Uomo, la Bestia e la Virtù. E il professor Paolino, che in questo, uno di questi classici pirandelliani, che nel 2019 ha festeggiato i 100 anni del debutto, è protagonista nel ruolo del capitano Perella, uno straordinario poliedrico, Vincenzo De Michele, che è l'attore appunto, che mi sono confuso perché c'è al fianco l'attrice Valentina Perrella, ecco, e che diventerà appunto la signora Perella con una R sola, quindi le cose si stavano complicando. In questo cast, insomma, si cerca di riportare la poetica di Pirandello attraverso la ricerca sull'essenziale, sull'umano e insieme del comico e del tragico. Quindi c'è una doppia vita, quella del signor Paolino, un professore privato che è l'amante della signora Perella, trascurata moglie di un capitano di mare, appunto il signor Perella, e la loro vicenda appunto prenderà dei caratteri paradigmatici, insomma, per raccontarci un po' l'uomo dell'epoca tra la prima e la seconda guerra mondiale, precisamente 1919, l'uomo, la bestia e la virtù, 18-19 marzo, Teatro Tor Bella Monaca. Poi andiamo anche l'abbiamo già ricordato, ma è caso di dirlo perché insomma il ritorno a Roma del Macbeth di Alessandro Serra, dal 15 al 19 marzo al Teatro Vascello, tratto dal Macbeth di William Shakespeare, e lo spettacolo ha vinto numerosi premi ed è stato già in tournée in varie parti d'Italia, insomma dal 2017 che continua la sua fortunata tournée. Quindi questo da non perdere per chi non l'avesse visto. Per quanto riguarda il Teatro Biblioteca Quarticciolo, 18-19 marzo andremo nell'ambito del progetto Orbita, di cui parleremo molto nei prossimi tempi, Golem, Amore Sintetico più Duos, Spellbound, è la compagnia di danza, la coreografia è firmata da Erika Silgoner, precisamente, e a danzare sono Gloria Ferrari e Giovanni Leone. La parola golem appare all'interno delle Sacre Scritture, significa forma leggera, materiale, crudo, quindi l'essere umano finito di fronte agli occhi di Dio, ovvero sia Adamo. Questo golem è il lavoro, che uno dei due lavori, appunto Golem Amore Sintetico, che racconta la poetica di una relazione tra l'uomo e la sua frustrazione antropomorfa, la distanza tra l'amore sognato e l'incapacità di renderlo concreto. Invece la seconda coreografia, diretta da Mauro Astolfi, si chiama Duos ed è un lavoro per tre danzatori, Anita Bonavida, Giuliana Mele, Matteo Mierdita, sempre di Spellbound, Contemporary Ballet, è la produzione, e è una serie di brevi creazioni tratte dal repertorio della compagnia, appunto firmata da Mauro Astolfi, un insieme di duetti evocativi della poetica di Spellbound e dell'autore, come una sorta di nuova forma di incontro e di dialogo tra i corpi. Questo andremo a vedere sul palco del Teatro Quarticciolo 18 e 19 di marzo. Alla Carrozzerie Notte, 18, 19, 20 marzo, per il ritorno a Roma della compagnia Alicia la Nera con The Black Tales Tour. Il progetto era già stato a Roma e nasce dalla necessità di sperimentare il rapporto che si instaura tra voce, musica e gesto, e del processo evolutivo che naturalmente ne consegue. Questo spettacolo è una sorta di work in progress, insomma, in cui ci si allontana dall'idea originale e poi si fa ritorno. Si parte dalle fiabe, che sono l'archetipo, ciò che appunto è nella parte più pura e genuina dei più profondi sentimenti umani. Quindi le fiabe classiche sono cinque, che vengono prese in considerazione: La Sirenetta, Scarpette Rosse, Biancaneve, La Regina delle Nevi e Cenerentola, che vengono spogliate dalla loro parte più consolatoria, che in genere viene raccontata ai bimbi, e viene poi evidenziata invece la loro parte più versione più autentica, quella che appunto era nell'origine dell'intenzione, insomma, di chi le ha raccontate per la prima volta. Quindi Carrozzerie Notte, 18, 19, 20 marzo, The Black Tales Tour per compagnia Alicia la Nera. Al Teatro India invece il ritorno a Roma dal 19 al 27 marzo per questo spettacolo compagnia di Cesare Ronconi e Mariangela Gualtieri, ovvero sia il teatro Valdoca, e che presenta appunto dalla regia di Cesare Ronconi, il testo originale di Mariangela Gualtieri, questo enigma, Requiem per Pinocchio. In scena ci sarà, oltre a Mariangela Gualtieri, Matteo Ramponi, Chiara Bersani e Silvia Calderoni, quindi due grandi performer che tornano sul palco del Teatro India. Un corpo di legno giace in proscenio, i sei pezzi sono smembrati e arsi. Il nostro Pinocchio, dinoccolato, a tratti malinconico, si sporge tutto verso di noi. La domanda è una: come si diventa umani e come si resta fedeli all'infanzia? Ecco, questo è nella domanda di Teatro Valdoca, 19-27 marzo, per Enigma, Requiem per Pinocchio al Teatro India. Ultimo appuntamento di cui, anzi, uno, gli ultimi due appuntamenti di cui parliamo sono, uno è un spazio che non ci siamo mai, perché raramente ci fanno teatro, ma finalmente c'è lì un debutto importante. Anna Foglietta e Paolo Minaccioni sono a teatro, diretti da Michela Cescon, con L'attesa, un spettacolo scritto da Remo Binosi, che sarà in scena da questa sera, 15 martedì, fino a domenica 20 marzo. È uno spettacolo già messo in scena nel 94 da Cristina Pezzoli. Michela Cescon decide di riproporre questo testo mettendo in scena le due attrici per la prima volta sul palco. La nobildonna Cornelia e la sua serva Rosa sono loro protagoniste di questo lavoro, ed è un testo di grande forza drammatica, di coinvolgimento, e anche se l'azione è ambientata nel Settecento, insomma, quindi sembra lontana da noi, ma quella freschezza, quell'erotismo naturale nei confronti della vita, del mondo, e la narrativa che tiene continuamente in equilibrio la commedia e il dramma, insomma, un racconto sui corpi femminili, sul desiderio, sulla maternità, sull'amore, sull'amicizia e sulla differenza di classe. Ma cosa dire di più? Andiamo a vedere il debutto nazionale. Michela Cescon dirige, Paola Minaccioni e Anna Foglietta, per questo L'attesa all'Auditorium Parco della Musica, 15-20 di marzo. Ultimo lavoro di cui parliamo è al teatro, come si chiama? Teatro Basilica, eccolo qua. Al Teatro Basilica, perché torna anche qui un Macbeth, ed è Soffia Vento, una navigazione solitaria con rotta su Macbeth. Dal 17 al 20 marzo Paolo Mazzarelli è l'attore e anche l'autore di questo lavoro, appunto, dedicato al Macbeth, ed è un noto attore immaginario, Pippo Soffiavento, che è in scena con la sua ultima interpretazione, un po' come un vecchio testo di Bernard, il Macbeth di Shakespeare. Ma qualcosa va storto, lo spettacolo si interrompe e l'attore è costretto a calare la maschera e mostra al pubblico non più il personaggio, ma se stesso. Ecco, in questo momento Macbeth e Soffiavento insieme diventeranno come due facce della stessa medaglia, e qui la vanità, l'ambizione, la follia, il potere si mescoleranno per darci uno spettacolo a suo modo, unico, quello di uno spettacolo che non andrà in scena l'altro, quello di Macbeth, ma il nostro Soffia Vento andrà in scena dal 17 al 20 marzo al Teatro Basilica. E con questo è tutto, ciao! Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.